Lascia la tua terra, lascia ogni cosa, io ti parlerò, se ascolterai la mia parola. Lascia ogni parola, vieni nel silenzio, io sarò con te e nel tuo cuore ti parlerò. Tu mi sentirai e nella pace mi accoglierai. Vieni nel deserto, figlio mio diletto, vieni, ti parlerò, sarò con te, ti amerò. Vieni, ti parlerò, sarò con te, ti amerò. Cercami con la tua fede, cercami nel tuo cuore, certo mi troverai, mi scoprirai, Dio con te. Questa è la mia strada che conduce al Padre mio, se la seguirai, con la mia mano ti guiderò. Non ti perderai, camminerò davanti a te. Vieni nel deserto, figlio mio diletto, vieni, ti parlerò, sarò con te, ti amerò. Vieni, ti parlerò, sarò con te, ti amerò. Vieni, figlio mio, vieni, parlerò al tuo cuore, aprirò a te una nuova strada. Vieni, figlio mio, vieni con me. Vieni con me, vieni con me. Vieni, figlio mio diletto.